se vuoi che diario la tua fantasia, se vuoi vederne di belle, se vuoi ridere a crepapelle, vieni da me. Se vuoi che dia musica alla tua allegria, se vuoi che dia largo alla tua pazzia, se vuoi toccare le stelle, sentirle ridere sotto la pelle, rivolgiti a me. Nell'antro del mago ha spazio la libertà, è tutto più vago, non vige moralità. Se vieni dal mago, tu lascia a casa l'identità, la perdi di rado, ma l'occasione che se voglie represse da pudori e fobie, se odi riamata, censure idiozie, il tempo adesso è propizio, non ti puoi chiudere dentro un ospizio, ma vieni da me. Se non hai paura di un gioco un po' spinto, se un uomo noioso non lo vuoi neanche dipinto, se cerchi un pazzo furioso, metti pure l'antenna a riposo e vieni da me. L'antro del mago si vende felicità, nei tuoi occhi indago, ci leggo incredulità, ma i conti li pago, ho referenze di qua e di là, ti do arrosto e sugo, ma il digestivo solo se mi